Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Allora, ieri al termine della trasmissione vi avevo preannunciato che avremmo parlato della nuova carta acquisti, della nuova social card. Abbiate pazienza, dobbiamo rimandare questo argomento perché oggi la cronaca ci ha imposto un cambio di tema per quello che riguarda Salva Danaio, ma insomma tanto la social card non è ancora diffusa, non è ancora distribuita, quindi per quello che riguarda le persone che hanno diritto alla nuova carta acquisti ne parleremo sicuramente più dettagliatamente prossimamente, probabilmente domani, a meno che la borsa non ci faccia altre sorprese. E infatti oggi proprio di mercati parliamo, perché abbiamo visto ieri l'ondata di ribassi che ha investito le borse europee. Oggi è un'altra giornata piuttosto negativa per i mercati finanziari, lo è stata anche per le borse asiatiche. In concomitanza a tutto questo, lo avete sentito moltissimo da tutti gli organi di informazione nelle ultime ore, dell'aggravarsi della situazione libica. C'è stata come conseguenza, come sapete, la crescita enorme del prezzo del petrolio, che sta viaggiando ai massimi da oltre 2 anni. Stamattina, a pesare sulle contrattazioni dell'area asiatica, è arrivato anche il taglio di giudizio sul debito sovrano da parte di Moody's, ha tagliato anzi l'outlook sul debito sovrano del Giappone. Oggi di nuovo tutto giù per quello che riguarda il prezzo del petrolio che vi citavo. Il paniere OPEC ha sfondato la soglia dei $100 al barile. L'OPEC, che è il cartello dei paesi produttori, si è detta pronta ad intervenire sui tetti produttivi. Ieri aveva detto che non era necessario farlo, oggi invece ha aperto anche a questa opzione, qualora fosse necessario. Naturalmente oggi riaprono anche i mercati americani dopo la festività di ieri e sarà molto interessante verificare rispetto alla crisi libica la reazione di Wall Street. Detto questo, c'è un altro giallo, chiamiamolo in questa maniera, che si sta consumando in Italia da questa mattina, perché da stamattina sono sospese le contrattazioni a Piazza Affari. Borsa Italiana ha comunicato alle 9, proprio in concomitanza con quella che avrebbe dovuto essere l'apertura, che si tratta di un problema di ordine tecnico che blocca tutti i segmenti, l'MTA, l'ETF, il SEDEX, il MOT, e secondo quanto risultava anche alle agenzie, la borsa ha comunicato ai clienti appunto che questo un problema tecnico era relativo al flusso, al cosiddetto flusso informativo, poi vi spiegheremo meglio, e tutte le verifiche appunto erano ancora in corso. Tra l'altro, nella stessa comunicazione di questa mattina, Borsa Italiana ha indicato anche agli operatori che potevano cancellare i propri ordini. La situazione ancora non si è risolta, sta provocando molto nervosismo fra gli operatori, una totale incertezza, anche perché non si sa quando la situazione tornerà alla normalità. Vedo adesso sull'agenzia, funzionava regolarmente invece il mercato dei futures, dei derivati. Anche questo è stato sospeso 10 minuti fa. Adesso Borsa Italiana, lo vedo dall'agenzia, comunica che l'idem è ancora sospeso e ci saranno comunicazioni fra 40 minuti alle 13, quindi andremo in concomitanza con il GR delle 13 e vedremo anche noi con grande interesse quali saranno queste novità. Allora, noi intanto su questa situazione abbiamo interpellato stamattina il presidente di Assosim, il presidente dell'organizzazione che rappresenta le società di intermediazione, e sentiremo appunto come ci spiega lui questo problema di natura tecnica che riguarda la Borsa Italiana e come sta creando anche problemi fra gli operatori di borsa. Per il resto di tutta la trasmissione affronteremo anche noi la crisi libica, le ripercussioni sui mercati finanziari. Ieri abbiamo visto che Milano è stata la peggior piazza d'Europa, ha perso il 3,5% per l'ondata di vendite che ha travolto tutti i titoli di quelle società che hanno dei business molto importanti con il governo di Gheddafi. Teoricamente anche oggi avremo una performance, quella che si registra sui circuiti alternativi di borsa, e adesso ci racconterà come sta andando su questi circuiti alternativi Maximilian Cellino, il collega del Sole 24 Ore che stamattina è con noi. Maximilian, ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si è portato una marea di carte, molte più di quelle che si porta regolarmente quando con lui parliamo o di titoli di Stato o di mutui molto più frequentemente. Per un quadro geopolitico che è sicuramente anche molto interessante, per capire anche questa situazione, che tipo di contraccolpi sta creando sulle altre borse, per esempio dei mercati emergenti, cosa sta accadendo sul mercato più in termini complessivi, Claudia Segre, direttore Letterassium Forex, esperta di mercati emergenti. Dottoressa Segre, buongiorno e bentornata a Salva Danaio. Buongiorno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde se vi volete sbizzarrire stamattina con qualche considerazione sul tema di oggi. Scriveteci alle 349 238 6666, oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Io direi di farvi ascoltare subito l'intervista a Michele Calzolari, appunto, vi ribadisco, presidente di Assosim, che è l'organizzazione delle società di intermediazione che da stamattina praticamente non possono operare. E allora, cosa dicono le società? Abbiamo chiesto a Calzolari in primo luogo se agli operatori sono state date informazioni più dettagliate dalla Borsa Italiana rispetto a quelle che invece sono state date ai giornalisti sulle ragioni appunto di questo blocco. Sentiamo. Diciamo che noi abbiamo cercato come associazione di raccogliere un po' di informazioni, non è facilissimo, probabilmente perché la stessa Borsa Italiana non sa ancora esattamente che cosa sia successo, però nella sostanza, senza entrare troppo negli aspetti tecnici, diciamo la piattaforma di negoziazione è fatta da due componenti, un flusso informativo e diciamo un motore che gestisce gli ordini. Questo, allora, il motore che gestisce gli ordini è una piattaforma inglese, che è stata, diciamo così, avviata un paio d'anni fa. Per quanto riguarda invece il flusso informativo, gli italiani usano ancora un flusso informativo che si chiama DDM Plus, che era della Borsa Italiana precedente, ed è questo che si è fermato. Allora, senza poter disporre del flusso informativo, la Borsa Italiana ha ritenuto che fosse opportuno bloccare anche la parte, diciamo così, operativa. Quindi diciamo che la crisi, parliamola così, di natura tecnica di Borsa Italiana di questa mattina non ha nulla a che fare con, come dire, la crisi libica e i massicci ordini di vendita che da ieri stanno arrivando su tutti i mercati internazionali, che ieri hanno particolarmente penalizzato Piazza Affari? Sicuramente no, non ha niente a che fare in modo diretto. Certo è che se gli investitori questa mattina volevano comprare o vendere, approfittando della situazione di particolare turbolenza, non hanno potuto farlo e non possono farlo. Ecco, infatti a voi, operatori, sì, sono stati inibiti proprio gli ordini di vendita da questo. Non è possibile operare in nessuna maniera. Tra l'altro, la cosa più interessante è che i più arrabbiati sono proprio invece gli inglesi, cioè gli intermediari inglesi, perché loro, avendo il flusso informativo, diciamo così, nativo, come si dice in termini tecnici, non capiscono perché non si debba e non si possa operare. E quindi loro stessi dicono: ma come, noi vediamo tutto, vediamo i prezzi, perché non possiamo operare? Ma questa è stata un'inibizione da parte della Borsa Italiana su tutto, diciamo, il motore operativo, sia che venga da Londra che venga da Milano, da tutte le parti in sostanza. Presidente, quanto vi danneggia questa situazione come SIM, come sistema? Beh, allora, diciamo che innanzitutto danneggia dal punto di vista prettamente economico, nel senso che per gli investitori poter operare oggi sarebbe stata un'opportunità, ma chiaramente anche per gli intermediari, nel senso che avrebbero lavorato e quindi guadagnato, e così non è, per cui c'è sicuramente un danno economico immediato, ma c'è soprattutto un danno d'immagine importante, perché insomma in situazioni di questo genere, e non è la prima volta, la borsa, come dire, non risponde in maniera adeguata. Poi è chiaro che tutti noi conosciamo i problemi dei computer, si possono rompere evidentemente, non dipende da nessuno, però è un fatto che per, diciamo, la borsa è un bene particolarmente prezioso da questo punto di vista, e evidentemente il danno anche d'immagine è molto rilevante, non c'è dubbio. Infatti ne avevamo già avuto uno pesante proprio all'inizio dell'anno, quando c'è stato lo spin-off Fiat, e Borsa Italiana non è stato in grado di gestire quella faccenda. È ovvio che questi sono, tra virgolette, se mi passa il termine, dei grandi regali ai circuiti alternativi. Ecco, Presidente, tutto questo avviene proprio in un contesto abbastanza particolare in cui si sta rimettendo in moto il risico delle borse. Noi l'abbiamo già avuta ospite nella nostra trasmissione proprio per discutere di questo argomento. È pronta a questo punto Borsa Italiana per andare con Londra a Toronto? Anche alla luce di queste problematiche che si verificano? Beh, chiaramente oramai le borse, diciamo, nell'operatività delle borse, la componente tecnologica è di gran lunga la più importante. Quindi su questo devono prestare particolare attenzione. La borsa inglese, diciamo, aveva deciso di cambiare l'intera piattaforma nuovamente, anzi ha deciso, adesso non so se con l'integrazione con Toronto questa ipotesi cambia, come cambierà, eccetera. Certo che questi continui, tra virgolette, blackout, insomma, suggeriscono che lì da lavorare c'è molto. Un'ultima considerazione: vi sono stati dati dei parametri, vi sono stati dati dei tempi per il ritorno alla normalità dell'attività da Borsa Italiana? No, segnalo però un altro fatto, che nel frattempo il mercato dei future, quindi il mercato a termine, diciamo, continua a lavorare, e questa è un'anomalia significativa, perché non si capisce come si possono fare dei prezzi sui futures senza avere i corrispondenti prezzi del sottostante. Questo pone, secondo me, dei problemi anche, insomma, di disallineamento, di rischi che gli operatori si stanno prendendo, francamente, a meno che non si coprano appunto sui circuiti alternativi o su altre piattaforme. È certamente una cosa che andrà studiata questa, e dove sarebbe interessante anche sapere l'opinione delle autorità di vigilanza. Infatti la Consob però ancora non ha parlato, ma sono sicura che sta monitorando quello che sta accadendo stamattina in borsa italiana. Io devo già andare a fare la prima pausa, per cui non riesco a cominciare la mia conversazione né con Maximilian Cellino né con Claudio Assegre. Nel frattempo saluto anche la collega Sissi Bellomo, che invece è venuta un po' a delucidarci relativamente all'andamento delle materie prime, con questo petrolio che ormai ha preso un trend che è presumibilmente inarrestabile. Vedremo che cosa accadrà. Allora vi mantengo ancora un po' di suspense, come la vogliamo chiamare, non so bene dove ho messo l'accento, ma tra un po' riprenderemo il dibattito sui temi di questa mattina, tra poco. La crisi libica, le ripercussioni sui mercati e lo stop questa mattina della borsa italiana. Oggi abbiamo veramente tanta carne al fuoco, ci rimane poco tempo, allora andiamo subito alla ciccia delle questioni di questa mattina. Vado da Claudia Assegre, esperta di mercati emergenti, direttore lettera Assium Forex. Se le chiedo, dottoressa Assegre, qualche settimana fa avevamo avuto un po' di timore della crisi egiziana, c'erano stati dei contraccolpi in borsa, ma non erano stati così violenti, soprattutto su Piazza Affari, come quelli che abbiamo visto ieri con l'inasprirsi della crisi libica. Perché questa pesa in maniera così più marcata? Il petrolio è il tema dominante, ma quali ricadute ci sono state anche sulle altre piazze finanziarie di quell'area, e che tipo di domino finanziario si può generare ora oltre a quello che abbiamo visto già in Europa? Ma la situazione appare molto complessa. Standard & Poor's in questo momento ha tagliato il rating della Libia BBB più, e probabilmente taglierà ancora, come dice nella sua nota. Quindi ripercussioni che vedono i livelli di rischio di default misurati dal CDS allargarsi notevolmente in tutta l'area medio orientale, le borse, soprattutto quelle di Qatar, Bahrain e Kuwait, che vedono dei ritracciamenti o comunque dei deflussi dei capitali di portafoglio, che solitamente per l'attività di merger acquisition e IPOs più in generale sono concentrati su quest'area. Per logica conseguenza se ne avvantaggia la Russia, che è uno dei maggiori fornitori energetici europei, e le corporate europee che sono presenti in Libia sono evidentemente nel mirino anche della speculazione. Per questo motivo le preoccupazioni salgono, soprattutto perché in Libia la situazione governativa non è gestibile come in Egitto, e quindi il rischio di una deriva somala resta nei numeri dell'attuale situazione civile in Libia. Quindi con l'allontanamento di Mubarak la situazione appunto sul mercato egiziano e di conseguenza su tutti quelli internazionali si era immediatamente rasserenata. Un allontanamento di Gheddafi non porterebbe le stesse conseguenze positive di rasserenamento? Dottoressa Segre, no, lo capisco. Il problema sta anche nei livelli di produzione. Algeria e Libia rappresentano il 5% della produzione mondiale di petrolio, il 10% nell'OPEC, quindi un potere dal punto di vista del petrolio maggiore in una situazione che strutturalmente da un punto di vista governativo non è così radicata come quella egiziana. Quindi se si poteva parlare di un modello turco per la transizione egiziana, nel caso libico abbiamo anche una rabbia soppressa da parte della popolazione che rischia di sfociare, come si è visto, in un atteggiamento dell'esercito che ha colto di sorpresa tutte le diplomazie internazionali e la stessa Lega Araba. Mm-hmm. Sì, Bellomo, allora è stato già più volte citato il petrolio anche nella riflessione di Claudia Segre. Questa mattina abbiamo visto il Brent, il greggio di riferimento europeo, schizzare a $108 al barile. Forse tu hai dei dati ulteriormente aggiornati, ma soprattutto quel movimento che ha destato più attenzione oggi è stato quello che ha portato il paniere OPEC al di sopra dei $100. Io peraltro pensavo che fosse una soglia mai raggiunta, invece c'era già finito al di sopra di questo livello, ma insomma un superamento di questo livello ha un'importanza anche di natura psicologica. Che cosa vuol dire? Ha un'importanza soprattutto per i paesi membri dell'OPEC, diciamocelo chiaro, è un paniere di greggi, è un parametro che loro guardano molto attentamente. I paesi dell'OPEC sono molto, molto reticenti in questi giorni, hanno detto sì, potremmo convocare un vertice d'emergenza, sì, certo, ovvio, il nostro statuto prevede che se uno dei membri non riesce per qualche motivo a produrre la sua quota intera, gli altri possano intervenire. In realtà con questi sommovimenti, con questi disordini che si stanno estendendo e che purtroppo c'è molto timore che possano estendersi ulteriormente nei paesi medio orientali, nei paesi del Nord Africa. I paesi membri dell'OPEC hanno paura di non riuscire a comprarsi il favore della popolazione, come fanno da decenni, da sempre, attraverso sussidi, attraverso prebende varie, attraverso ricchi stipendi da impiegati statali per persone che fanno poco o nulla nel corso della giornata, perché questa è la realtà di molti paesi, soprattutto nell'area del Golfo Persico. A loro fa molto comodo che il petrolio costi tanto, hanno bisogno di riempire le casse dello Stato, hanno bisogno di spingere il pedale sulla politica dei sussidi. È ovvio che anche di fronte al consesso internazionale, anche di fronte agli altri paesi, se veramente la produzione libica dovesse scendere significativamente, per adesso ufficialmente calata di 100.000 barili al giorno, è ovvio che qualche cosa, che un gesto distensivo, aumentare un pochino la produzione, quantomeno per compensare quella che manca, dovrebbero farlo. Allora, tutto abbastanza normale sui livelli del petrolio, perché invece questa situazione di tensione ha portato verso l'alto di nuovo anche il prezzo dell'oro e il prezzo dell'argento, Sissi? Beh, l'oro e l'argento, l'oro soprattutto sta ovviamente salendo come bene rifugio in situazioni di disordini, di instabilità geopolitica, è un fatto abbastanza normale. L'oro è anche sostenuto da una buona domanda. Nel 2010 c'è stato un fortissimo rimbalzo della domanda che ha portato ai massimi da 10 anni la domanda di oro tra gioiellerie e investimenti. L'argento agli occhi degli investitori ha un fascino supplementare, ovviamente bene rifugio anche l'argento in quanto metallo prezioso, in quanto ha prezzi abbastanza agganciati all'oro, ma è anche un metallo industriale. L'80% dell'argento finisce in applicazioni industriali. Se si ha la sensazione che la ripresa stia guadagnando terreno, che la ripresa stia diventando più solida, l'argento attira di più, e poi è un metallo molto speculativo, un mercato piccolo dove è facile sfruttare volatilità e forti guadagni. Dopo la crisi dei mutui subprime e tutto quello che è successo successivamente l'anno scorso, la crisi degli stati sovrani, ci siamo chiesti a lungo quali potevano essere gli altri fronti che avrebbero potuto provocare altri movimenti molto accentuati di borsa. Ecco, lo stiamo scoprendo in questi giorni. Allora, Maximiliano, non ti ho invitato per scherzo, l'ho fatto salutare ma ancora non abbiamo sentito. Torniamo un po' a questa sospensione delle contrattazioni a Piazza Affari. Apprendo adesso dalle agenzie che i mercati a Milano sono tutti sospesi ancora e seguiranno comunicazioni ufficiali alle 13, quindi lo ribadisco, vediamo un po' quali novità Borsa Italiana ci darà, ma soprattutto c'è questa protesta dei trader inglesi contro il blocco del mercato italiano. Secondo quanto raccolto dai colleghi dell'agenzia Radio Core, l'intenzione dei trader della City era di approfittare oggi anche della volatilità delle quotazioni sui mercati, determinata dalle analizzatissime tensioni in Medio Oriente, ma questo non è stato possibile sull'istituto italiano per lo stop delle contrattazioni, e chissà quali saranno appunto le conseguenze rispetto a tutto questo. Intanto vi faccio ascoltare la domanda di Franco da Cervi e poi andiamo a tutte le informazioni che ha raccolto invece Maximiliano Cellino. Franco, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio per l'intervento. Volevo fare, a quanto ho visto da stamattina, praticamente la mia critica a Borsa Italiana, che puntualmente, quando si manifestano queste problematiche, che siano geopolitiche oppure di altro tipo, continuamente bloccano il sistema, che alla fine penalizza noi che vorremmo chiudere posizioni eventualmente aperte il giorno precedente e riaprirle eventualmente short per recuperare le perdite. Beh, Franco, guardi, noi l'abbiamo detto prima anche con Michele Calzolai, presidente di Assosim, ci ricordiamo questo clamoroso caso della prima seduta dell'anno con lo spin-off Fiat. Quante altre volte è successo? È così frequente questa sospensione delle contrattazioni? Non mi pare che succeda così tanto. Quali sono le problematiche che denuncia, così diffuse, per operatori così abbastanza arditi, vedo, come lei, Franco? Le problematiche sono sempre le stesse. Puntualmente, quando si verificano queste problematiche, la Borsa Italiana, che io presumo che loro giustifichino sulle news real time che io seguo continuamente, di problemi tecnici, ma io a questo punto ho, come secondo me tanti altri, più che un problema tecnico è un pilotaggio tecnico a questo punto, perché di rifletto a questo punto, io vedendo la borsa, il DAX di Francoforte, per dire un titolo che seguivo da vicino, che sta perdendo il 4,5%, io l'avrei potuto comprare short perché ci avrei ripreso tutte le perdite, però non potendo operare su Borsa Italiana Io a sto punto sono con le mani legate, insomma, non so più come lo so, lei insieme a tanti altri. Allora, Maximilian, da che cosa cominciamo? Perché qua effettivamente gli aspetti che potrebbero essere analizzati sono molti. C'è una forte penalizzazione, non solo dai piccoli investitori, oltre che dai grandi intermediari, però ecco, c'è una, come dire, una situazione differente proprio tra gli investitori grandi e i piccoli, che per esempio non possono avere accesso alle piattaforme alternative che citava prima Michele Calzolari, quindi non possono approfittare neanche di questo canale. Sì, possono approfittarne, ma soltanto in minima parte, perché la MiFID è intervenuta, la direttiva europea è intervenuta, secondo tutti ha fatto molto bene a togliere l'obbligo di concentrazione dei mercati, cioè ad aprire anche mercati alternativi. Conosciamo Chi-X, Turquoise o BATS, che infatti si sono guadagnati delle fette di mercato molto, molto elevate. Sono mercati alternativi sulle quali si possono scambiare azioni. E noi anche abbiamo il TLX anche in Italia, no? Che è quello di Unicredit, non è lo stesso di quelli che hai citati? Non è simile? Sì, in parte. E in realtà poi dopo la MiFID è andata avanti e ha imposto agli intermediari la cosiddetta best execution, un nome abbastanza complicato anche a pronunciare. Cioè, una regola che impone agli intermediari di assicurare a chi tratta le condizioni migliori, cioè i prezzi minori, gli spread, cioè la differenza tra denaro lettera minore. Non ha fatto purtroppo l'ultima cosa la MiFID, cioè imporre a tutti gli intermediari di avere accesso su tutti i mercati, cioè anche sui mercati alternativi. Per cui cosa succede? Che c'è tutta la bella possibilità di andare sui mercati alternativi, però se l'intermediario decide di non andarci... e siccome magari è anche costoso andarci, un piccolo risparmiatore non ci può andare su questi mercati alternativi, tranne qualche raro caso in Italia. Quindi da questo punto di vista sarebbe opportuno intervenire di nuovo sulla MiFID per imporre a tutti l'accesso a tutti questi mercati alternativi che adesso stavano quotando. Poi, se vogliamo andare a vedere gli scambi, io ho anche qualche indicazione, ma non so neanche se darla o meno, chiaro, però diciamo che... da quello che abbiamo potuto ricostruire teoricamente stamattina, perché siccome abbiamo anche noi avanzato il sospetto che questo blocco fosse in qualche maniera determinato, non pilotato come ha detto l'ascoltatore, ma determinato anche da un'ondata di vendite che stamattina potesse ancora colpire particolarmente i Piazza Affari, e insomma invece dai circuiti alternativi risulterebbe che la media della perdita di Milano stamattina sarebbe intorno al punto e mezzo, così come sta facendo Parigi, così come fa Londra e le altre piazze. Ma il punto e mezzo è come diceva in precedenza Calzolari, è relativo al futures. Che però in questo momento credo che non tratti più, è bloccato perché hanno bloccato anche il mercato idem. Io vedevo alcuni titoli sì che perdevano, vedo un Eni che perdeva un 1,8% in un mercato alternativo, anche in Pregilo e Unicredit erano in ribasso, tanto per citare alcuni dei titoli che ieri perdevano di più e che sono più che altro legati per diversi motivi alla crisi libica. Si tratta comunque di scambi molto molto sottili, non c'è tutta, cioè, quella la liquidità reale potrebbe essere differente, molto è difficile, dirlo in questo momento, come anche lo stesso Calzolari diceva in precedenza, è difficile fidarsi fino in fondo del future che perdeva l'1,5%, perché non essendoci sottostante che tratta è complicato. Allora, ci dobbiamo fermare, suggerimenti per chi è in viaggio. Poi c'è una domanda di Armando da Ravenna sul cane a sei zampe, quindi sull'industria petrolifera e le previsioni, mentre faccio preparare anche Claudia Segre su un'altra riflessione che chiede un altro ascoltatore, Riccardo, sulla situazione dei fondi sovrani nella zona del Medio Oriente. Ma qua dovremmo fare una puntata che dura mezza giornata, e insomma intanto i fondi sovrani sono intervenuti attivamente ad investire ovunque nel mondo negli ultimi anni, anche da noi un pochino, ma vediamo un po' come potremmo soddisfare la curiosità di questo ascoltatore. A tra poco. E allora, da che cosa riprendiamo? Riprendiamo da Ermanno da Ravenna, perché altrimenti lo facciamo aspettare un po' troppo. Ermanno, buona giornata. 800 24 00 24, per chi volesse approfittare degli ultimi scampoli della trasmissione che ci rimangono. Ermanno, buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Mi date, se è possibile, per quello che è possibile, una previsione su cosa può capitare a Eni e il fatto che la società ha presentato un ottimo bilancio a fine anno, che cosa può influire sulle prospettive della crisi in Libia? Insomma, un business non trascurabile per il nostro cane a sei zampe, sì Bellomo. Purtroppo per noi l'ENI è molto esposta in Libia. L'ENI è il primo operatore in Libia, la prima compagnia straniera, compagnia partner. Lo Stato italiano si è speso molto, fin troppo, per facilitare gli affari dell'ENI in Libia, che d'altra parte risalgono molto indietro negli anni. Sì, purtroppo io il rischio più grosso che vedo, al di là dell'immediato, che potrebbe esserci, per ora non c'è stata un'interruzione di produzione, una riduzione di produzione. Il rischio grosso che vedo nel futuro è che con un cambio di regime ci possa essere una rinazionalizzazione degli asset, o un tentativo quantomeno di rinazionalizzarli, o comunque di ridiscutere le condizioni dei contratti. Teniamo presente che noi non importiamo solo molto petrolio dalla Libia, ma è uno dei nostri più importanti fornitori di gas, non ai livelli della Russia o dell'Algeria, però è una fonte di gas molto importante. Proprio stamattina il governo italiano, il sottosegretario Saglia, diceva che siamo già pronti ad attivare le riserve strategiche di gas, perché il timore che proprio smetta di passare anche quello. Claudia Segre, invece, sulle riflessioni che incuriosiscono l'ascoltatore sul tema dei fondi sovrani. Non so da dove possiamo cominciare, appunto, esaminando la situazione libica. I fondi sovrani libici, appunto, quanto hanno investito in giro per il mondo, e questa situazione interna quanto può, come dire, che tipo di contraccolpi può avere anche proprio sulla politica degli investimenti dei fondi libici in giro per il mondo? Ma allora, diciamo che da una parte abbiamo buone notizie sui fondi sovrani che arrivano dalla Norvegia, che ha dato sostanzialmente un'apertura, se vogliamo, una lettera di credito nei confronti dei titoli dei paesi periferici europei. Questa è una buona notizia. Sull'atteggiamento relativo alle partecipazioni del fondo sovrano libico, soprattutto le interessenze sull'Italia, queste appaiono sostanzialmente stabili nella loro interessenza. Non ci sono notizie di movimenti diversi da quelli che sono stati per adesso gli atteggiamenti estremamente proattivi dal punto di vista del business. Il problema sta anche nell'atteggiamento degli altri fondi sovrani medio orientali, che chiaramente sposteranno il loro raggio d'azione sempre di più verso altri paesi emergenti, meno verso l'area medio orientale, tranne il supporto all'interno su alcune corporate dei vari paesi. Quindi per adesso non ci sono notizie nello specifico che riguardano il fondo sovrano libico, e quindi permane una presenza che è strategica per il paese e che per adesso non vede nessun cambiamento di fronte, di strategia. Intanto un ascoltatore dice, riferendosi a quello che accade su Milano: vedrete che se i futures di Wall Street sono positivi si riapre prima delle 15, chissà perché. Sostiene questo il nostro Carlo. Allora, tra l'altro, presenza dei libici nei capitali delle nostre società, Unicredit al 7,5%. Se ritorniamo un po' indietro nei mesi e ricordiamo che cosa è costato a questa banca l'ingresso dei libici nel capitale, che hanno portato, insomma, le dimissioni anche di Alessandro Profumo. Maximilian Cellino, insomma, è stato un momento anche quello particolarmente duro, e se si pensa che adesso tutto potrebbe essere rimescolato di nuovo per questa crisi interna al paese di Gheddafi, è, insomma, una situazione piuttosto interessante. Non so se hai qualche riflessione anche su questo. Sì, è interessante, sì, per modo di dire, nel senso che qualcuno è abbastanza preoccupato. Va detto comunque che tutte le partecipazioni in Italia delle libiche non sono partecipazioni di Muammar Gheddafi, anche se lui le ha guidate, ma sono delle partecipazioni che fanno riferimento a fondi che a loro volta fanno riferimento alla Banca Centrale della Libia. È ovvio che il timore è che, essendoci un cambiamento al vertice, ci possa essere un cambiamento anche nelle strategie di investimento. Però non sono, quello che volevo sottolineare ancora una volta, non sono soldi personali di un dittatore che se ne potrebbe andare, ma sono appunto soldi della Libia, e poi dovremo vedere cosa succede nei prossimi giorni sotto questo aspetto. Ecco, volevo ricordare comunque che non è soltanto la Unicredit, probabilmente l'avete ricordato anche voi, sono molte le società italiane che hanno presenza libica nel capitale, sì. C'è la stessa Finmeccanica, Fiat, ricordo la Juventus e anche la piccola Retelit. Senti, tu nelle sole di questa mattina affronti anche il tema delle ripercussioni sul mercato obbligazionario della crisi libica, no? Si è manifestata una nuova tendenza alla versione a rischio da ieri, e questo ha portato al ribasso i rendimenti dei titoli tedeschi. Sì, esatto, quello che succede, che si è visto anche nelle ultime settimane, neanche soprattutto negli ultimi mesi, gli investitori è un po' come se spingessero sul bottone, rischio sì, rischio no. Quando non vogliono prendere rischi, succede che vendono gli asset più rischiosi, quindi le borse vanno subito a rifugiarsi dove vanno sempre in questi casi, cioè nel Bund tedesco, e oggi vedremo anche probabilmente nel titolo di Stato americano. Oggi gli Stati Uniti appunto riapriranno, perché ieri era festa, e quindi è successo che acquistando i titoli di Stato tedeschi, il rendimento ai titoli di Stato tedeschi, che stava salendo già da tempo, si è ridotto e si è di nuovo allargato il differenziale, il famigerato spread, insomma il differenziale di rendimento tra i titoli tedeschi e quelli periferici, soprattutto ahimè quelli dell'Italia, che ieri sono tornati a 160-162 punti base, cioè un decennale italiano. Per attirare investitori deve riconoscere un premio dell'1,62%. Questo è legato non necessariamente alla crisi libica, ci sono anche dei problemi tecnici. L'Italia avrà delle nuove missioni venerdì e c'è molta tensione. L'ultima riflessione, 30 secondi di tempo con Sissi Bellomo, così accontentiamo anche questo appassionato ascoltatore di Torino, Davide, che dice: ti legge sempre. Sissi finalmente riesce a sentire anche la sua voce, insomma il suo sogno segreto. Il petrolio, fino a che livello lo vedremo? Perché insomma ci stiamo anche un po' preoccupando per il pagamento delle nostre bollette, ci stiamo preoccupando per il fatto che naturalmente quando il petrolio accelera incide sull'inflazione, riporterebbe probabilmente sulla strada dell'aumento dei tassi di interesse la Banca Centrale Europea. Insomma, secondo te si possono fare delle ragionevoli previsioni su un aumento ancora consistente delle quotazioni del greggio, ma impossibile? Non ho la sfera di cristallo, tendo a pensare che finché non si tranquillizza la situazione in Medio Oriente i prezzi resteranno comunque in tensione. Non dimentichiamoci che insomma, al di là del caos libico, che è veramente molto grave anche in maniera reale per la produzione di petrolio, non dimentichiamoci che i mercati temono moltissimo che questa destabilizzazione possa estendersi a paesi del Golfo. Se si estendesse mai all'Arabia Saudita, non so dove potrebbero arrivare i prezzi del petrolio. Guarda, lascio aperta questa parentesi e torneremo a riaffrontarla. Non riesco a far intervenire Claudia Segre, che so che è molto appassionata di questi argomenti. Io devo terminare qua, adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. IMSS, per saperne di più. L'IMSS continua a spiegarci le parole della previdenza. Oggi ci presenta il concetto della finestra mobile. Chi ha maturato i requisiti necessari per il pensionamento entro il 31 dicembre 2010 non viene coinvolto dall'applicazione della cosiddetta finestra mobile, e quindi la decorrenza del pagamento della pensione rimane quella prevista dalla normativa precedente. Le nuove regole, pertanto, riguardano coloro che hanno maturato i requisiti successivamente al 1 gennaio 2011. Anche alla luce della nuova normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, rimane fermo il principio che una volta che la finestra si è aperta, il diritto alla pensione viene acquisito definitivamente e il lavoratore può andare in pensione quando lo ritiene opportuno. Il calo delle borse, peraltro, qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che, essendo sui massimi da un paio d'anni a questa parte, qualche operatore abbia preso a pretesto la crisi libica per incassare un po' di soldini. Potrebbe anche starci questa interpretazione, forse un po' meno su Piazza Affari, che invece ha anche delle ragioni concrete per aver portato ieri a picco alcuni titoli. Chissà oggi come stanno andando. Vedremo tra 4 minuti le nuove delucidazioni della borsa italiana. Io intanto ringrazio Sissi Bellomo, Maximiliano Ancellino, Claudia Segre per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.